La notte se ne andrà. Arrivederci ancora, le margherite al sole, l'olivo crescerà. Staremo qua ad aspettare l'alba. Arriverà l'aurora, il vento si calmerà. Respira forte.